I ragazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, l'ultima leva ad essere chiamata alle armi. 265.000 italiani inviati a resistere sul Piave che il generale Diaz immortalò con le parole che avete appena sentito. Un'intera generazione di adolescenti, spesso non ancora diciottenni, che contribuì in modo decisivo alla vittoria, come riportano trionfanti le cronache di allora. A 11 di questi soldati ragazzini furono assegnate medaglie d'oro al valore, ma dietro i toni enfatici della retorica bellica c'erano delle facce, storie di ragazzini strappati alle famiglie, agli studi, in gran parte al lavoro della terra. Una generazione mandata al macello che a quelle famiglie, a quegli studi e a quella terra in molti casi non tornò più. Direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave siamo sempre quelli di allora. E allora, quando tuona il cannone, è la voce della patria che chiama e noi risponderemo presente. Oggi siamo di fronte a quella stessa generazione, ma che ha visto la luce esattamente 100 anni dopo. Sono i ragazzi nati nel 1999. Ora l'Europa vive un lungo periodo di pace e di guerre sul campo da combattere, per fortuna non ce ne sono più. Ma anche questi ragazzi vivono andando incontro alla vita cantando, come diceva Diaz. Non vanno più in guerra dunque, ma le loro piccole grandi battaglie si consumano nelle trincee dei banchi di scuola, in casa con le famiglie. E poi partono anche loro, ma per ben altri motivi, per fortuna. Per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato oppure anche per una gara sportiva. E come i loro fratelli più grandi ardono della passione dei loro 18 anni che li fa arrabbiare con insegnanti, genitori, quella generazione di cui fra non molto prenderanno proprio loro il posto. E allora Radio 24 ha deciso di raccontarveli, i ragazzi del 99 che quest'anno diventano grandi, incontrandoli e facendoli parlare di cosa fanno, cosa pensano, cosa vorrebbero cambiare e come vogliono diventare. 9 ritratti di ragazzi straordinariamente normali. Ecco oggi il primo. Anzi, la prima, perché qui con noi c'è Giada Morello. Ciao Giada. Ciao a tutti. Giada è venuta a trovarci da Como, frequenta il quarto anno del liceo classico. Cominciamo proprio dalla tua pagina Facebook, che mi sono divertita a spiare in questi giorni per capire un po' di te prima che ci incontrassimo. 1380 amici, su quanti social sei presente? Tre, che sono? Instagram, Facebook e Snapchat. Allora, dicevamo liceo classico, sì. Scuola impegnativa, come vai? Bene. Sei bravissima. Sì, dai. Media? Del 7. Bravissima. E cosa ti piace della tua scuola? Allora, mi piace cercare di capire cosa c'era prima di noi, cioè riuscire a studiare tutto ciò che è venuto prima di noi e quindi come noi siamo arrivati ad avere tutto ciò oggi. Quindi studiare l'antichità, studiare esatto. La letteratura, la storia di quello che è venuto prima di noi. Sì. E invece cos'è che non ti piace della tua scuola, al di là della singola materia? Cos'è che non ti piace dei tuoi professori, del clima che si vive a scuola? Se c'è qualcosa che non ti piace? Sì, sicuramente c'è qualcosa che non piace. E penso sia a volte il modo di fare dei professori, il pretendere tantissimo pur sapendo che un ragazzo o una ragazza, una persona che ha di fronte, può arrivare solamente fino a un certo punto. Il cercare di il continuo stimolarli verso qualcosa in modo eccessivo. In modo eccessivo, esatto. Cioè voi cercate di fare un po' del vostro meglio, insomma, esatto. Quello che riuscite a fare, invece a volte agli insegnanti non basta mai. Esatto, no, la parola giusta è non basta mai agli insegnanti. Pretendono troppo. Sì.

Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto. Ha a che fare con me, è qualcosa che ha a che fare con me. Bellissima davvero questa canzone di Tiziano Ferro con Carmen Consoli. Ti ringrazio per averla scelta, così abbiamo potuto farla ascoltare anche qui a Radio 24. Ci vuole tanto coraggio, recita questa canzone. Tu quando è che ti appelli al tuo coraggio? Beh, un atto di coraggio ce l'hai già raccontato quando sei partita, ma nel quotidiano? Nel quotidiano, nell'affrontare una qualsiasi giorno partendo dal mattino. E perché è comunque un atto di coraggio il avere la voglia di vivere ogni giornata. Tra l'altro è di una ragazza coraggiosa che parla anche il libro che hai scelto per noi, Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella. Non dirmi che hai paura è la storia di una ragazzina somala che vuole correre alle Olimpiadi, ma che si ritrova clandestina dall'Etiopia al Sudan, poi attraverso il Sahara, verso la Libia, per arrivare poi via mare in Italia a Lampedusa. Anche questa è una storia di coraggio. Ti esatto. Piacciono le persone coraggiose? Sì, tantissimo. Io ammiro tutte quelle persone coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare qualcosa, di prendere una decisione, appunto come racconta la ragazza in questo libro. Un argomento importante quello affrontato in questo libro, che è anche quello dell'emigrazione. Cosa pensi quando vedi le immagini di queste barche che affondano, dei bambini morti sulle spiagge? Una tragedia storica che forse noi guardiamo con troppa indifferenza. Esatto, perché io penso che tutte queste persone che ad oggi arrivano in Italia, se decidono di affrontare un viaggio di questo genere, è perché la loro situazione nel paese in cui vivono è davvero drammatica, e quindi bisogna cercare di aiutare nel giusto, nei limiti del possibile, tutte queste persone che cercano di arrivare verso una nuova vita, perché è riniziare da zero una vita. Non ti fa arrabbiare che noi della generazione precedente non siamo in grado così di gestirla questa cosa? Secondo me va un po' rivalutato questo punto, perché bisogna cercare di essere aperti a nuovi arrivi, e ovviamente nei giusti modi e nel limite del possibile. Come ti informi? Leggi i giornali? Allora, di la verità. Allora, tutte le mattine a casa mia arriva il giornale. Meno male. È sul tavolo. Io lo guardo. E magari teniti accesa la radio. Sì, tutte le mattine la mamma. Lo apro il giornale, leggo dei titoli, poi quelli che mi interessano leggo anche l'articolo. Se no, una spolveratina, esatto, sui titoli, vabbè, è, sì, già, è già qualcosa. Ma quando, non so, vedi dei politici in TV o leggi, per esempio, le pagine politiche sono quelle che salti? No, o le sono leggi? Le prime pagine che leggo. Che leggi, sì. Quindi ti interessa la politica? Sì. Come ti sembra il nostro quadro politico? Non voglio una valutazione di cosa. Tra l'altro tra un po' voterai, esatto, per la prima devi cominciare volta ad aggiornarti. Allora, cosa pensi della nostra classe politica? Stimi i nostri politici adesso, a prescindere dall'uno o dall'altro? Allora, non tutti, però ci sono persone che hanno fatto tanto per l'Italia o vogliono fare tanto per l'Italia, cercano di fare qualcosa per il nostro paese. Sei mai stata ad una manifestazione politica? No. Un corteo? No. Fibrillazione ventricolare. Andiamo con la rianimazione, una fiala di adrenalina e carica 360. Subito, carica, libera. Vuoi fare il medico? Sì. Ecco perché hai scelto questa serie TV. E quindi farai medicina, il test e ti vedi già col camice? E diciamo di sì, speriamo di sì. Ma hai paura del futuro? Perché insomma si parla tantissimo, immagino se ne parlerà anche nella tua famiglia, di disoccupazione giovanile, di giovani che non trovano lavoro, che si devono accontentare di lavori mal pagati. Ti fa paura il tuo futuro? Assolutamente sì, perché nulla è certo in questo periodo, e quindi anche il nostro futuro, il futuro della mia generazione, non sa a cosa andrà incontro, e questo fa un po' paura. Quindi con i tuoi compagni parlate di questa sì. cosa, vi fa paura sì. il futuro sì. e scegliete l'università anche forse pensando davvero a quelle carriere che danno maggiori possibilità di lavoro? Esatto, siete sì, influenzati da siamo questo. Molto influenzati. Più che quello che vi appassiona, quello che vi darà anche un lavoro? E a volte si guarda anche quello. Che fai nel tempo libero? Allora, mi piace uscire con gli amici e poi insegnare pattinaggio su ghiaccio, perché ho pattinato su ghiaccio per 10 anni a livello bellissima agonistico cosa, sì. E la passione è rimasta e quindi ho deciso appunto di insegnare ai bambini. Sabato sera che fai? Si esce con gli amici. Dove vai? Allora, dipende dalle serate, o si sta in giro in centro, o si va a casa di qualcuno, o a volte si va anche in discoteca e ci si svaga un pochino. A che ora devi rientrare? Alle 2. Vabbè dai, ti è andata anche bene. Sì, sì. Quindi adesso che sei maggiorenne non dici mamma, papà, ritorno quando voglio. Comunque, ci ho provato però non ancora è andata tanto bene. Non benissimo. E in questa natura strana e simbolica? Che rottura di coglioni. Dove l'angelo inviolato si mischia alla sfinge antica? Mi spappola il cervello questa poesia. A che serve perdere tempo su queste cazzate? La sfinge, i minerali, gli angeli. A te interesserebbe uno che ti parla così? Film francese che parla di un'amicizia improbabile. Olivier Nakache, Eric Toledano, quasi amici. Perché ti piace questo film? Ancora una storia di amicizia. Per sì, te è importante sì, questa cosa? Sì, importantissima. Sì, sì, sì, esatto. Perché questo film? Perché secondo me questo film insegna qualcosa o vuole passare un messaggio a tutte quelle persone che lo guardano, appunto. E qual è questo messaggio? Il messaggio che a volte, pur avendo tutto, come il protagonista, manca una cosa fondamentale per riuscire a vivere a pieno la vita in e maniera felice. In questo caso era appunto la felicità, perché il protagonista è tetraplegico e quindi è paralizzato e tutti lo prendono un pochino come vittima, e invece lui vuole sentirsi come tutti gli altri, e arriverà una persona appunto che si prenderà cura di lui ed è una persona che è totalmente diversa da lui, perché quindi l'incontro fra esatto, due persone tra due così diverse. Esatto. Una figura di riferimento, il nome di qualcuno che ti ha fatto dire vorrei diventare così? Si può dire la prima presidentessa che salì al potere nel Regno Unito. Wow. Margaret Thatcher. Sì, perché io penso abbia abbia avuto un coraggio assurdo, perché fu appunto la prima donna a salire al potere e nonostante ciò iniziò un cammino per aprire nuovi orizzonti al Regno Unito. Ma ti piace il fatto che lei sia riuscita come esatto, donna sì, a diventare sì, primo ministro sì. Più che la politica esatto, in sé? Sì, proprio questo. Ti vedo bene a te, eh? Tu vuoi fare il medico, ma insomma anche in politica ti avrei visto bene. Ultima domanda, lo sai chi erano i ragazzi del 99 che danno il nome a questa trasmissione? Sì, erano i ragazzi del secolo prima del mio, che venivano scelti per partecipare alla prima guerra mondiale. Ti fa impressione pensare che dei ragazzi tantissimo. Della tua età venivano sì. sbattuti al fronte? Sì, sì, sì, sì, sì. Fa non paura, però comunque lascia un po' di... Solo 100 anni prima esatto, di te. Esatto, solo 100 anni prima, e questo è il vero punto. Grazie, grazie a Giada Morello per essersi raccontata grazie ai microfoni di Radio 24, grazie a Paolo Corleone per il sapiente lavoro di montaggio alla parte tecnica. Maria Piera Cesci vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata dei Ragazzi del 99 e ci lasciamo ancora con le parole del generale Diaz. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.